sbronza del giorno prima. La verità non mi ha messo mai incinta, è la vita. Si sbatte in faccia la mattina, la realtà controlla le cuffie mentre si registra. La mina sputata sul mic, la sveglia spenta dai guai. Never give up, anzi you won't be mine. Svegliami domani quando parli non abbai. Mostrati a me ora mentre sono ancora blind. Ad occhi chiusi, proseguo per la via, scavalcando i tralci. Conti a guidarmi, mi interessa sorvegliarmi. In mani bagagli, BPM a dedicarmi. Battiti quattro quarti, il suono dei miei passi. I riscatti di una vita riascoltati in un beat. I contatti con il mondo recando un altro fit. Hey miss, this love could be just a dream. Riguardo il passato, non vedo nient'altro che l'hip hop in testa e rap underground. Riguardo il passato, non vedo nient'altro che l'hip hop in testa e rap underground. Non ti guardavo nemmeno in faccia. Anni in cui metto il cappello, la bandana in tasca. Il tempo perso a scuola, scrivere una strofa. Il banco, la noia dove ho inciso la mia storia. Quando non passava l'ora, che se lo ricordo ancora. La prof grida ascolta ed io sorda ignora. Anni in cui rapavo da solo nella mia stanza. Ora in studio a decidere una traccia. Se scrivo rabbia, uso una base. Se verso lacrime basta una frase. E il mio diario assomiglia ad un mare bagnato dalle illusioni che mi fanno affogare. In modo che io possa spaziare. Un muro a più posto contro cui posso urlare. A più dito, un sordo perché ascolto con il cuore. Cieca d'amore, incontriamoci quando indosso le cuffie. Riguardo il passato, non vedo nient'altro che l'hip hop in testa e rap underground. Riguardo il passato, non vedo nient'altro che l'hip hop in testa e rap underground. Riguardo il passato, non